musica si muove appena, ma è un mondo che mi scoppia dentro, un brivido lungo la schiena, un colpo che fa pieno centro.